Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma che da 5 anni vi fa compagnia la domenica, parlando di donne, di lavoro, di parità di genere, di quello che funziona, di quello che non funziona. Non soltanto in Italia, e guardando anche invece a quello che funziona altrove. Questa settimana, tra l'altro, è successa una cosa interessante, perché a Bruxelles si doveva votare per la presidenza dell'Eurogruppo, il centro nel quale convergono i ministri dell'economia e delle finanze dei paesi europei. C'era tra i candidati una economista spagnola, ministra dell'economia e delle finanze del suo paese, Nadia Calvino, che aveva tutte le carte in regola per diventare presidente dell'Eurogruppo. 2 lauree, 4 lingue, 4 figli e una carriera tutta maturata nell'ambito, appunto, sia del Ministero dell'Economia che delle direzioni generali a Bruxelles. Aveva tutte le carte in regola, ma non è andata. Sarebbe stato la quarta donna al potere in Europa, dopo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dopo Christine Lagarde, presidente della BCE, e dopo Kristalina Georgieva, che è al Fondo Monetario Internazionale. Ma no, non ce l'ha fatta, e invece le hanno preferito un irlandese. E la questione di genere non credo che c'entri. C'entra il fatto che i paesi del Nord Europa hanno preferito, si sono sentiti più garantiti da un irlandese piuttosto che da una socialista, la cui nomina era appunto appoggiata anche dall'Italia e dalla Francia. Sarà per una prossima volta comunque. 828 12 12 per le vostre opinioni, i vostri commenti, le vostre critiche. Aspettiamo tutto con i vostri WhatsApp vocali. Buongiorno Maria, io le volevo suggerire di dedicare una puntata della sua bella trasmissione anche a chi, come me, è un papà che è stato appena licenziato per aver chiesto troppi congedi parentali durante il periodo del Covid-19, durante la quarantena. Del resto io non sapevo a chi lasciare i miei bambini, perché l'asilo era chiuso. Quindi sì, è vero, oltre alle mamme anche i papà devono contribuire alla famiglia, alla casa, però il problema è che poi, se si chiede un permesso in più, succedono queste cose, quindi si è anche visti malissimo. Perché succede questo? Grazie e buona giornata. Avete sentito il messaggio che ci ha lasciato questo padre appena licenziato per aver fatto troppi congedi parentali? Ecco, questa è la situazione che si trovano a fronteggiare molte famiglie. Se le scuole sono chiuse, se gli asili sono chiusi, se uno dei genitori ha necessità di lavorare perché non può fare un lavoro da remoto, e l'altro prende un congedo parentale, e però mi sembra di capire che non sempre ci sia stata o ci sia la necessaria comprensione. Noi continueremo a parlarne, se può essere d'aiuto in questo momento, e intanto in bocca al lupo, speriamo che ci siano delle altre possibilità di lavoro a breve per questo padre. Ci lamentiamo sempre, l'abbiamo fatto spesso anche qui a Nessuna è perfetta, della scarsa partecipazione dei padri italiani alla gestione della famiglia, alla cura dei figli. Poi succede che invece appunto per un'emergenza come quella del Covid-19 un padre prende dei congedi parentali, e però paga a prezzo della perdita del lavoro. Settimana scorsa un po' di noi stessi ci siamo occupati, perché abbiamo parlato di come affrontare le vacanze, come recuperare le energie dopo i mesi di lockdown, e il vostro messaggio, uno dei messaggi vocali che ci sono arrivati su questo tema, ve lo faccio proprio ascoltare adesso. Che bella idea quella di parlare di vacanze e benessere. Direi che mai come quest'anno tutti noi ne abbiamo un gran bisogno. Personalmente me ne andrò in montagna. Sono certa che aria pulita, letture e passeggiate riusciranno a ricaricarmi. Lei cosa farà, se posso chiederglielo, cara Maria? La montagna è certamente una delle mete che quest'estate piaceranno di più, perché c'è la sensazione di avere aria pulita, di camminare dopo tanti mesi chiusi in casa. Cosa farò io? Penso che me ne andrò, come quasi tutti gli anni, sulla spiaggia del mio paese, a Sabaudia, e lì mi cercherò con un buon libro, un bel po' di sole, speriamo, e qualche buon pesce, cercherò di ricaricarmi. E penso che sia una vacanza che condividerò con tanti che torneranno al paese di origine, o comunque andranno a trovare i genitori che sono rimasti, appunto, magari al sud. Vacanze italiane, sì, e poi magari si va a trovare qualche familiare che invece in Italia non vive, vedremo. Il tema però di questa domenica non è la vacanza, ne abbiamo già parlato. No, il tema è, come accennavo all'inizio, fare di questo argomento, la parità di genere, il contributo che le donne devono, non solo possono, devono dare alla comunità, come argomento, diciamo, di fil rouge di queste puntate. Torna anche questa settimana. Capita nella vita di molte di noi, no? Di avere dei periodi in cui ci si stacca un po' dal lavoro perché nasce un bambino, o perché ci sono i fatti della vita che ci portano ad allontanarci, ma rientrare, ricominciare, deve essere un fatto naturale, non un trauma. Ecco, mi pare che negli ultimi anni le cose stiano cambiando, che molte donne stiano prendendo in mano le situazioni. Per esempio, molte donne hanno capito quanto sia importante fare network, stare insieme, non farsi la guerra le une con le altre. Ci sono dei gruppi di lavoro, ci sono dei collettivi finalizzati proprio ad aiutare le donne al raggiungimento del loro pieno potenziale. Come funzionano? Seguiteci in questa puntata e lo scoprirete. Nessuna è perfetta. Benvenuta, buona domenica, Ingrid Tigland Akai, fondatrice e managing partner di Hayden Ventures. Che cos'è l'azienda che lei ha fondato? Grazie, molte grazie per la bella presentazione e per avermi invitato. Innanzitutto vorrei spiegare cos'è esattamente Hayden Ventures. La nostra è un'azienda europea. Abbiamo uffici ad Oslo e Stoccolma e principalmente investiamo in startup attive in campo scientifico. Geograficamente parlando, siamo particolarmente concentrati su aziende dei paesi nordici. Molte delle aziende in cui investiamo, infatti, sono basate nel nord Europa, ma nel nostro portfolio ci sono anche aziende al di fuori di quest'area. Come dicevo, investiamo in particolare in campo scientifico, nello specifico nel campo farmaceutico, della tecnologia medicale, nella diagnostica. Siamo cresciuti molto in termini di portafoglio da quando abbiamo iniziato nel 2017. Perché ha avvertito la necessità di investire in startup gestite da donne? So first of all, I'll say we like to invest into. Innanzitutto vorrei specificare che diversifichiamo ed investiamo in aziende in cui sono presenti sia uomini che donne. Dopo aver trascorso oltre 10 anni nel private equity e nel mercato venture, mi sono resa conto della totale mancanza di diversità in questo settore. Ecco perché facciamo particolare attenzione a questo aspetto quando investiamo. In questo modo ci piace anche pensare di incoraggiare le compagnie in cui investiamo a promuovere questa diversità. Le donne nel suo settore sono ancora una minoranza, ma questo dipende dal fatto che sono considerate meno aggressive, meno coraggiose degli uomini. Io credo che in generale, ovviamente ci sono anche delle eccezioni in entrambi i lati, credo che le donne siano più avverse al rischio rispetto agli uomini. Forse dipende dal fatto che non siamo andate mai in guerra, eh? Non abbiamo esperienza di battaglia. Sì, credo però ci siano eccezioni anche in questo. Le donne sono più consapevoli ed avverse al rischio. Questi sono aspetti positivi quando si vuole fare un investimento. All'interno di un'azienda è importante che ci sia un mix di uomini e donne. Quello che notiamo è senz'altro che le donne sono meno aggressive rispetto agli uomini nel contattare gli investitori, nel chiedere denaro in sostanza. Hanno tuttavia ottime idee, sono buone problem solver. Tuttavia necessitano di più tempo nell'attrarre gli investitori. Sempre parlando in termini generali, gli uomini sono più abili nel lanciarsi. Quello che noi cerchiamo di fare quando cerchiamo aziende in cui investire è pensare che possano essere attrattive anche per le donne, proprio perché sappiamo che sono più attente e restie al rischio quando si mettono in contatto con noi. È stato complicato lavorare in un ambiente prevalentemente maschile? So yeah, that's an interesting question. Questa è una domanda molto interessante. All'inizio della mia carriera devo ammettere di non aver prestato molta attenzione alla questione di genere. Era un aspetto del quale forse non ero consapevole. L'ho realizzato nel corso degli anni e soprattutto guardandomi indietro. Ho sempre lavorato in ambienti a prevalenza maschile. Io nasco come medico e anche questo settore è senza dubbio composto per la maggioranza da uomini. Lo stesso vale per il mondo finanziario nel quale sono entrata successivamente. Sinceramente, non ci ho mai pensato troppo e questo probabilmente mi ha aiutato. Diciamo che non sono mai stata consapevole del fatto di essere spesso l'unica donna in una stanza. La mia percezione è comunque cambiata molto negli anni e la parità di genere oggi è molto sentita nella mia azienda. Quale consiglio darebbe a una giovane donna che voglia lavorare nel suo settore? I have plenty of suggestions. I get this question on a regular basis. Senza dubbio avrei dei suggerimenti da dare. Innanzitutto le direi che si tratta di un settore molto competitivo, quindi è bene iniziare a darsi da fare già a scuola, a lavorare sodo e ottenere buoni punteggi. Questo è il primo consiglio. Poi le direi di fare i compiti a casa, vale a dire di leggere, di informarsi su come funziona questo mondo, leggere libri sugli investimenti, sui mercati, ce n'è molti. Altrimenti ci si può facilmente documentare online, su internet. Una volta fatto questo, presentarsi e scambiare qualche parola con chi opera nel settore. Questo è un buon modo per imparare. Le donne sono state una parte importante nei mesi del Covid, erano impegnate negli ospedali come medici, come infermieri. Lei stessa è un medico. In che modo ha questa sua formazione ha influenzato la sua carriera? Sì, le donne sono state importanti. Spero che questo possa essere un'opportunità per fare qualche passo in avanti. Il mio background come medico, devo dire che è piuttosto necessario per il lavoro che svolgo. Come dicevamo all'inizio, la mia azienda investe in compagnie legate al mondo della medicina e in generale scientifico. Ecco perché è molto importante, perché conosco la materia e ciò in cui decidiamo di investire. Quella del medico è senza dubbio una professione molto gratificante, dovuta al fatto che aiuti di fatto i pazienti, E questo aspetto è estremamente motivante anche per il lavoro che sto facendo oggi. Aiutando e sostenendo le compagnie che operano in campo medico, di fatto contribuiamo allo sviluppo del settore, della ricerca e dei trattamenti. Di conseguenza, è come se aiutassimo migliaia di pazienti e questa è una cosa che personalmente mi motiva e mi gratifica molto. Thank you, Ingrid. Thank you. Have Thank a nice you so Sunday. Much for having me. Grazie per l'invito. Nessuna è perfetta. Eccoci, eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi vocali, 828 12 12, ce ne mandate tantissimi, è un segno che questa trasmissione che ormai va avanti da 5 anni ha creato un vero rapporto con tante di voi, tanti e tanti anche, non ci ascoltate soltanto voi ragazze. Bene, allora io vorrei tornare sul tema del networking, del lavorare tra donne, che è un po' il cambio di passo di questi anni, e scoprire se funziona davvero. E lo faccio con la fondatrice e presidente di Esclapron & Co., che appunto è Costanza Esclapron. Allora, Costanza, buona domenica. Buona domenica. Anni ai vertici della comunicazione, in Rai, in Enel, in Alitalia, in Wind, in Intesa San Paolo, sei oggi nel CDA di grandi aziende, ma sei soprattutto a capo di un gruppo che si chiamava prima CSC Vision, e che invece ora si chiama Col tuo nome, ed è un gruppo di comunicazione che, casualmente o no, ce lo dirai tu, è composto tutto da donne. Sì, buona domenica. È composto tutto da donne, direi casualmente. Io lavoro bene con gli uomini e con le donne indistintamente, per me sono tutti esseri umani, come dire, non vorrei anche sfatare questa cosa che le donne non sanno lavorare con le donne oppure sanno lavorare meglio con gli uomini. Ecco, io lavoro bene con chiunque, basta che siano bravi. Detto questo, casualmente, perché alcune le avevo incrociate nella mia vita precedente quando ero nelle grandi aziende e le ho rivolute insieme a me nella nuova veste e avventura, altre le ho incontrate insegnando all'università ed erano giovani studentesse molto promettenti e ho deciso di portarmi da bordo. E casualmente sono tutte donne, non saprei dire perché, non ho nessuna prevenzione nei confronti degli uomini. Ma è una questione di selezionare più bravi, non voglio dire che tu non abbia incontrato dei giovani bravissimi e pronti a lavorare con te, però quali caratteristiche ti hanno colpito nelle persone giovani, quelle che hai preso a lavorare con te? Hanno caratteristiche diverse tra di loro e quindi non c'è una tipologia standard. Mi hanno colpito la prontezza, soprattutto, la vivacità intellettuale, la curiosità, anche in un certo senso la simpatia. Poi ce n'è una che è un pochino più secchiona, diciamo così, l'altra invece è una più dedicata a internet, quindi con una testa più moderna, eccetera. Però tutte quante avevano una gran voglia di imparare, una grandissima umiltà e proprio il desiderio di fare questo mestiere, e io l'ho trovato in loro, non l'ho trovato magari nei ragazzi, che non so se per questo è perché le ragazze hanno le idee più chiare e i ragazzi se le chiariscono dopo, o semplicemente è stato un caso, ecco, non vorrei dire, no, una cosa, non vorrei appiccicare etichette che non mi piacciono. No, le etichette no, non piacciono proprio qui a Nessuno è perfetta. Costanza, ma l'idea di fare comunicazione, in un'altra puntata nella quale sei stata ospite tu ci hai raccontato un po' come era nata, l'hai vista cambiare negli anni? E sì, oggi, quando un cliente, viene da te, tu ormai fai comunicazione davvero da molti anni, ti chiede cose diverse? Sì, la professione è cambiata tantissimo. Quando io ho cominciato a farla, esistevano addirittura i fax, non c'era internet, quindi ecco, parliamo di un mondo dove si parlava al Sì, telefono, le quando ho agenzie di cominciato stampa io c'era erano. la macchina da scrivere, quindi Sì, c'era il fake, il famoso fake dove no, le agenzie arrivavano con rullo e si strappavano, e quindi stiamo parlando proprio di un'era preistorica. Quindi i cambiamenti ce ne sono stati tanti tecnologici, quindi sono cambiati anche i mezzi di comunicazione, siamo passati dalla carta stampata, la televisione, la radio, a internet, che secondo me oggi prevale quasi su tutto il resto, ed è assolutamente no, un mezzo di comunicazione identico agli altri, appunto, se non per certi versi in alcuni casi superiori. E quello che chiedono le aziende, mentre all'inizio era, diciamo, si incominciavano a fare le prime comunicazioni obbligatorie, mettiamola così, e successivamente si è passati a un'attenzione per molteplici aspetti, non ultimo quello reputazionale. Quindi oggi le aziende che ci chiedono di essere assistite, di raccontare al meglio la loro storia e di valorizzarli, ci chiedono anche di andare a consolidare la loro reputazione. E questo sinceramente è una cosa che quando ho cominciato io, stiamo parlando inizio anni 90, diciamo, non era neanche un concetto. Ma Costanza, dopo il Covid, tu hai percepito, come dire, un cambiamento radicale nelle richieste che ve ti vengono fatte dai clienti per comunicare in un modo? Hai percepito il bisogno che hanno di essere più emozionali, di far valere di più i valori dell'azienda? Che cosa è cambiato? Allora, sicuramente c'è molta attenzione a tutti i temi ambientali, c'è una sensibilità maggiore. Questo non so se è dovuto al fatto che abbiamo visto le nostre città silenziose, pulite, meno inquinate, che oggettivamente c'è più attenzione ai temi globali, che il Covid ci ha reso un'immagine del mondo diversa da quella che avevamo prima, per interconnessione, per scambi di popoli, anche di malattie evidentemente. Ma c'è sicuramente una maggiore attenzione a studiare dei progetti e dei percorsi di attenzione all'ambiente. Per il resto c'è una gran voglia di tornare alla normalità, cioè di raccontare che le aziende, le industrie, le imprese hanno ricominciato a funzionare, che stanno no, piano piano ricominciando il loro percorso. Questo anche è un tipo di comunicazione che va fatta nei confronti dei dipendenti, dell'esterno, dei fornitori, di quello che si chiama in generale stakeholder. E questa è molte aziende hanno voglia anche proprio solo di raccontare questo. Per quanto riguarda invece la tua esperienza, personale, com'è nata la voglia di mettersi in proprio? È nata dal fatto che quando sono uscita dalla RAI ho preso un periodo sabbatico e nel frattempo naturalmente mi guardavo intorno per cercare un nuovo lavoro, e non era semplicissimo, diciamo, ricollocarmi in un ambito aziendale, perché erano poche le aziende che avrebbero potuto accogliermi, mettiamo così, per esperienza, per età, per tanti motivi. E poi, mentre avevo preso questo anno sabbatico in cui anche insegnavo all'università, molte aziende, alcune aziende, mi hanno chiesto se potevo dargli una mano con i progetti, potevo seguirle, potevo consigliarle, e piano piano ho fondato la società, e poi arrivavano via via aziende che chiedevano appunto un supporto, un aiuto, di essere seguite, di essere assistite, di diventare parte di quello che per me, diciamo, è un gruppo anche di condivisione di valori, perché poi io alla fine con i miei clienti condivido anche dei valori e degli ideali, perché nella comunicazione questo è abbastanza importante, non è solo una questione di pagare una parcella a un professionista, deve esserci anche un'affinità di vedute che deve essere condivisa. Quindi, insomma, io almeno per la scelta che faccio io è quella di avere un'affinità con i miei clienti, e piano piano questa l'ho trovata, sono cresciuti e sono cresciuta anch'io. Il che dimostra che non è affatto vero quello che si dice normalmente, che le donne non abbiano il coraggio di rischiare, o almeno non è più vero, non è assolutamente così. L'ultima cosa che voglio chiederti, e poi ti lascio libera da questo interrogatorio, è: ma se, come si dice, no? Questa Europa a guida femminile, perché c'è Angela Merkel che guida il semestre europeo adesso, c'è Christine Lagarde alla BCE, c'è Ursula von der Leyen alla Commissione. Ecco, se questa Europa a guida femminile riuscisse davvero a imprimere una svolta e a cambiare le cose, tu dici che persino in Italia, persino dalle nostre parti, si comincerà davvero a pensare che senza le donne non si riparte? Io penso che siamo pronti, anche in Italia. Cioè, io penso che anche l'Italia è pronta per avere delle cariche molto importanti affidate a donne. Ormai sono abituate a donne ministri, ministri veramente importanti di peso all'interno del governo, e penso che siamo pronti ad avere un presidente del Consiglio donna o un presidente della Repubblica donna. Cioè, penso che l'Italia sia pronta a questo. Poi magari è il mio ottimismo che mi fa pensare che ormai ci siamo, che abbiamo, no, raggiunto una parità intellettuale, però veramente penso che in questi anni abbiamo fatto dei grandissimi passi a livello culturale, e ritengo che così come oggi ci si farebbe operare da un cardiochirurgo donna, o ci sono aerei Certo. pilotati da donne e nessuno dice no, io non salgo su quell'aereo perché è pilotato da una donna, penso che siamo pronti anche per un paese guidato da donne. Per ora ci sono donne nei consigli di amministrazione, sei membro del CDA Enel, ma donne amministratore delegato di grandi aziende non ce n'è. Ce ne sono pochissime. Questo forse è anche perché per diventare amministratori delegati il percorso è cominciato 30 anni fa, e quindi dobbiamo calcolare che le donne che sono oggi amministratori delegate sono cresciute in un mondo fatto da 30 anni fa, ma piano piano, e quindi diciamo forse erano anche meno numerose quelle che facevano certi studi piuttosto che certe preparazioni, ma adesso arriva. Perché le ragazze hanno fatto gli stessi studi, no? Sono numerosissime quelle che hanno fatto ingegneria, quelle che hanno fatto economia, quelle che hanno il master, quelle che lavorano nelle società di consulenza. Quindi E quindi è tu solo dici una che questione, tra 10 è o un tra timer. 20 anni, Meno, tra 10 o tra meno, 20 anni ce l'avremo? Meno, meno, meno. meno. Io penso Cerchiamo di essere che ottimiste. ma tra 10 anni sarà, io penso che le ragazze o le donne, giovani donne che hanno incominciato a studiare all'università 10 anni fa, tra 10 anni per forza sono ai vertici, perché sono uguali ai ragazzi, uguali, è solo una questione di bravura, ormai non penso che ci sia più una limitazione su quello, e hanno una mentalità diversa da quella che avevo io, le mie coetanee, in cui forse diciamo c'era anche un equilibrio da tenere nella famiglia diverso, le giovani ragazze sono completamente paritarie nei loro rapporti. E Evviva! noi ci auguriamo che questo sia, come dire, un concetto condiviso non solo dai loro partner in famiglia, ma anche dai loro colleghi, perché l'idea che appunto una donna debba fare sempre più fatica per dimostrare che è brava è l'idea che valeva per qualche generazione fa, dovrebbe non valere più, come dicevi te, il piano di riconoscimento del merito non richiede un supplemento di fatica da parte delle donne. Viaggiamo Penso leggeri che tutti. è una strada che abbiamo aperto noi, sai Maria, e quella è una fatica, diciamo che no, è un ghiaccio che abbiamo rotto noi, spero che per loro, arrivando adesso, questo scoglio ci sia meno, e veramente io penso che tra 5-10 anni avremo un bel numero di donne amministratore delegato. Grazie a Costanza Esclaplon, che è stata con noi anche questa domenica. Buona domenica a lei e noi ci fermiamo per una breve pausa. Nessuna è perfetta. l'ultima parte di Nessuna è perfetta, e a proposito di donne che sanno fare rete, noi qui a Radio 24 e in particolare a Nessuna è perfetta, la rete la facciamo proprio per vocazione. La settimana scorsa erano qui con noi due eccellenti colleghe di Radio 24, Nicoletta Carbone e Alessandra Tedesco, e questa domenica invece è con noi Monica D'Ascenzo, giornalista, scrittrice, ideatrice e responsabile di Alleiop, l'altra metà del sole, il blog multifirma del Sole 24 Ore che è proprio dedicato alla diversity. Benvenuta Monica. Grazie dell'invito. Allora, questa puntata di Nessuna è perfetta parte dal presupposto che le donne stanno imparando a fare rete. Ne parliamo da anni, ora succede anche nel mondo del lavoro. Che cosa puoi dirci dal tuo osservatorio, un osservatorio comunque privilegiato, del cambiamento di attitudine? Come hai visto cambiare la capacità delle donne di fare rete e di aiutarsi reciprocamente, ma non soltanto appunto chiedendo un posto in consiglio d'amministrazione, anche a livelli molto meno, come dire, di vertice? Hai notato dei cambiamenti in questi anni? Sì, ho notato dei cambiamenti che erano già in fieri, e sicuramente questo periodo di lockdown ha accelerato le tendenze, soprattutto quelle a trovare dei punti di contatto e di aggregazione. Sono nati tanti gruppi diversi che vanno da gruppi Facebook a reti nate su gruppi WhatsApp, che poi hanno preso iniziative concrete, e stanno nascendo sia a livello territoriale, quindi magari per regione, sia verticalmente per settori, sia a livello intergenerazionale. Per esempio faccio l'esempio di Girls Restart, che è un gruppo nato su WhatsApp, che ha all'incirca 300 professioniste, e ogni giovedì alle 7 su Instagram fanno delle dirette in cui una giovane, diciamo, e una meno giovane si confrontano su alcuni temi. E questo secondo me è molto importante, perché arriva davvero a un patto concreto, non quello di cui abbiamo sempre parlato, ma che magari non abbiamo mai visto nel concreto. Ecco, mi pare che sia un bel segnale proprio il fatto che nascano dei gruppi spontanei. Dopodiché invece nelle aziende, perché a livello europeo sta cambiando molto, se non bastasse semplicemente il fatto che al vertice delle istituzioni europee, adesso anche del semestre europeo, perché c'è la cancelliera Merkel, essendo il semestre europeo a guida tedesca, insomma al vertice delle istituzioni europee ci sono donne, quindi in Europa le cose già erano cambiate, cambieranno ulteriormente, ma in Italia nelle aziende non c'è ancora un po' di resistenza a capire che l'Italia non riparte senza donne? Sicuramente c'è questa resistenza, sicuramente la situazione data dal post-Covid, e quindi non so, le scuole chiuse, il fatto che comunque il lavoro di cura all'interno delle famiglie pesi ancora molto sulle donne, fa sì che le donne facciano chiamare corsa questa corsa con uno zaino ancora più pesante del solito sulle spalle. E infatti sono usciti diversi report che dicono che questa crisi sarà pagata in particolar modo dalle donne. Bisognerà vedere poi. Anche prima del Covid 35.000 erano le donne italiane che hanno lasciato il lavoro per l'impossibilità di conciliare il peso familiare e ovviamente il carico di lavoro. 35.000 non sono poche. Sono tante, e io temo che saranno ancora di più durante l'anno, perché alcune ricerche dicevano che all'incirca il 15% delle donne è disposta a lasciare il lavoro per curare i figli, anche perché nonostante il bonus babysitter, il bonus centri estivi, insomma restano ancora tante lacune, e dover correre di là e di qua diventa faticoso, e si rischia comunque di non riuscire a fare bene le cose. E questo è il secondo aspetto, perché anche nel momento in cui si riesce a far quadrare soprattutto è necessaria la concentrazione e la possibilità di poter fare quella corsa alla carriera professionale con le stesse possibilità e la stessa libertà, la stessa energia che hanno gli uomini. Ecco, io ho un po' paura che non solo possa diminuire l'occupazione femminile, che già in Italia è al 49,5%, ma che possano anche mancare quelle promozioni a livello dirigenziale, a livello manageriale, che possano portare a una maggiore diversity nel prossimo futuro, perché ricordiamolo, sì, nelle perché aziende italiane, non ci sono... se non ci sono delle donne ai vertici, certe sensibilità ovviamente non vengono colte. È normale che sia così, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa a proposito, per esempio, delle prossime elezioni regionali, con l'obbligo che è stato introdotto sia in Liguria che in Puglia della doppia preferenza. Perché? Perché avere delle donne nei consigli regionali, così come averle come amministratori delegati, direttori generali, eccetera, fa sì che alcune sensibilità che sono femminili possano essere recepite molto molto meglio. Grazie, grazie a Monica D'Ascenzo, giornalista e scrittrice, ideatrice e responsabile di Alley Hope. Buona domenica, Monica. Grazie. Buona domenica, benvenuta Maria Rosaria Natale, CEO di Your Business Partner e promotrice e ideatrice di She Leads. She Leads è un gruppo di lavoro, un gruppo di donne manager che raccontano come hanno saputo gestire situazioni critiche e trasformarle in risultati. E allora io, Maria Rosaria, senza perdere tempo, le chiederei di raccontarci qualche esempio concreto di come da situazioni critiche le donne del vostro gruppo di She Leads sono riuscite a uscire positivamente. Molto volentieri, grazie tantissimo per questo momento di confronto. Sì, sono donne che hanno realizzato in situazioni molto complesse, come si dice oggi, situazioni volatili, con quasi nessuna certezza di successo, dei risultati importanti, coinvolgendo gli altri, comprendendo la complessità del momento dal punto di vista di business e portando valore a tutti, non solo all'azienda ma agli shareholders, eccetera. Esempi: secondo me ci sono due esempi fantastici, se posso anche tre. Il primo sì. È di Isabelle Capron, francese, che aveva rilanciato Fauchon. Fauchon mm-hmm. era un grandissimo brand di alta gastronomia, appunto, francese, retail. Proprio in Place de la Madeleine, cresciuto Brava. Enormemente, è diventato anche un ristorante, lo conosco bene. Ecco, e che è successo? Esatto, è successo che questo bellissimo brand negli anni sta scemando, stava perdendo allure, stava perdendo il contatto con i nuovi clienti e stava veramente perdendo moltissimo fatturato. Era considerata una grande signora, una volta elegante, una volta di successo. Hanno proposto a Isabelle di prendere in mano il rilancio di questo brand. Isabelle mm-hmm. non se l'è fatto ripetere due volte, tutti gli altri uomini avevano detto no perché non c'era nessuna certezza di successo. Lei era entusiasta dall'idea di poter coinvolgere la famiglia proprietaria del brand e comprendere realmente i bisogni dei nuovi clienti. Quindi, avvicinandosi e ascoltando veramente i clienti, si è resa conto di cose assolutamente apparentemente banali. Lo zucchero forse doveva essere un po' meno al centro di tutti i prodotti, l'attenzione alla salute, al benessere era estremamente importante e quindi lei ha ridisegnato tutti i prodotti partendo dal bisogno dei clienti, dei nuovi clienti, e ridando in questo modo valore veramente al cliente, ha ridisegnato tutta la pipeline di produzione, ha ridisegnato tutta la comunicazione e ha riportato veramente ad una allure, come si dice in Francia, dei vecchi tempi, Fauchon. A questo punto non si è fermata e un'azienda di lusso francese scusatemi, cinese, che voleva prendere il meglio del lusso francese, a Aisticlé, ha chiesto a Isabelle Capron di lanciare, di creare questo nuovo brand. Una contraddizione in termini: il grande lusso è francese o italiano, se mi permettete, non è certamente cinese. E invece lei anche qui ha preso in mano questa incredibile sfida 7 anni fa, e oggi Aisticlé è uno dei migliori brand in Francia, in Cina, e inizia ad essere globale, lavorando su tutti i temi della digitalizzazione e della sostenibilità. Questo è un esempio di grande scala, ma un esempio un po' più terra terra, un po' più vicino a noi, senza andare sui grandi brand che vengono ripresi, qualcosa di più vicino e più prossimo, magari a chi vede. Due bellissimi. Lorenza Zanardi, giovanissima, 38enne, general manager di Rajah Italy, è un'azienda di packaging, fanno packaging, ok? Lei ha iniziato come assistente dell'amministratore delegato, pian pianino è cresciuta, si è resa conto del business, della complessità, ma anche del bisogno di ricreare tutto il mondo del packaging attorno alla sostenibilità, e con grande velocità, con grande adattabilità ha triplicato i fatturati, e nel momento del Covid ha portato dei risultati incredibili, perché non si è mai fermata, ma ha ricoinvolto tutto il team partendo dalle esigenze di appunto sostenibilità, di ecologia, eccetera. Partiamo da un momento di crisi vera, cioè allora sì. Partiamo dal fatto che magari ci sono ascoltatrici che in questo momento stanno perdendo il lavoro, sanno di aver perso il lavoro e non fanno le top manager, sono appunto impiegate in un'azienda, impiegate nel settore privato. Hai voglia di dire che da un momento di crisi può nascere un'opportunità? Loro in questo momento stanno soltanto facendo i conti con lo stipendio che non ci sarà più. Che cosa potremmo dire loro? Se noi guardiamo le caratteristiche di queste signore, ma sono manager, sono leader, ma sono delle signore che hanno queste caratteristiche e sono assolutamente universali. Sanno leggere il contesto in cui si trovano, e la parola che io uso in questi contesti è empatia. Sanno guardare con empatia quello che accade, sanno capire quello che sta succedendo, non si lasciano andare. Queste persone da cui possiamo imparare non sanno che cosa significa lamentarsi. Tutte loro si sono rigenerate, si sono ricostruite anche in situazioni di grandissima difficoltà, perché hanno cercato di capire con chi potevano costruire valore, per sé innanzitutto, ma poi per tutte le persone insieme a loro. In una parola, non lasciarsi andare, quando invece la tentazione sarebbe di dire: oh me, poveretta, sono rimasta senza lavoro, mo che faccio? Dove si trova la forza per non lasciarsi andare? Dagli esempi. Ecco perché ho creato Shilitz, dagli esempi, perché queste donne che non sono arrivate, nessuna di loro, se tu la incontri, si sente arrivata, mai. Sono donne che hanno voglia ho di capito. Raccontarsi. Bene, credo che abbiamo finito il nostro tempo, potremmo parlarne per ore. Grazie Maria Rosaria Natale, grazie a voi che ci avete seguito. Io vi ricordo il nostro numero verde, se vorrete chiamarci, 828 12 12, fateci sapere cosa pensate di questa puntata, degli esempi che vi ha portato Maria Rosaria Natale, e soprattutto fateci sapere le storie vostre, i fatti vostri. Noi ci sentiamo domenica prossima, se vorrete, e se vorrete anche da lunedì al venerdì, come sempre 8:20, 24 mattina, con Simone Spezia. Ciao, buona domenica! È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, suoruba.it.